Eccoci, anche oggi facciamo un altro passettino nella conoscenza, semplice, semplice, come è il mio stile. D'altra parte Gesù parlava al popolo. Della conoscenza della Bibbia, siamo ancora al primo libro di Samuele, andiamo avanti a grandi passi, siamo capitolo 24esimo, dove si parla di Davide e di Saul. Ecco, io vi raccomanderei, se posso, di leggere per conto vostro dal primo libro di Samuele, andare avanti. Sono proprio semplici e sono belli, sono dei racconti, solo che sono dei racconti di storia della salvezza. Qui vediamo uno scontro tra Davide e Saul. Bisognerebbe aver letto anche le parti precedenti, no? Vi riassumo velocissimamente. Dopo che Davide ha vinto il Golia, il grande gigante dei Filistei, diventa l'eroe del momento, no? E adagio adagio prende possesso della gente come entusiasmo. Saul gli fa sposare la propria seconda figlia, ma fa un calcolo come per incastrarlo. Ma non posso raccontarvi tutto, amici, leggete, leggete voi. Di fatto poi dopo si scontrano e qui assistiamo in questo capitolo, appunto capitolo 24esimo del primo libro di Samuele, a Saul che è in giro con un grosso contingente di armati per arrestare, per far fuori. Naturalmente chi doveva nascondersi andava nel deserto. Mi auguro che abbiate visto il deserto di Giuda. Non è come il deserto che si vede sulle rappresentazioni, il deserto fatto di dune e di sabbia. Il deserto di Giuda è fatto di rilievi collinari che si innalzano come dei grandi mammellotti di terra e di roccia, non tanto sabbia, la sabbia non c'è praticamente, che in primavera fioriscono perché le piogge li fanno fiorire. Ma poi dopo, in assenza di precipitazioni, diventano. Quindi dovremmo chiamarlo un terreno desertico, fatto di valli, avvallamenti, scoscendimenti, grotte, l'ideale per nascondersi, ecco, l'ideale per nascondersi. Allora dicono, guarda, Davide è nel deserto di Engaddi. Engaddi è una bella oasi lungo il Mar Morto. Saul scelse 3.000 uomini e va e cerca di catturarlo. Mentre sono in giro così, Saul si ferma, entra in una grotta. Qui perdonatemi se devo essere. Sta scritto nella Bibbia. Entrò in una caverna per coprirsi i piedi. Questo è un modo per dire per andare a fare i suoi bisogni in toilette. Quel tempo la gente non aveva pantaloni, neanche mutande, avevano queste tuniche. Sono stati i barbari a far conoscere ai romani i pantaloni, perché i barbari, quando hanno invaso l'Europa, quando hanno invaso il regno romano, loro cavalcavano e a cavallo avevano questo abbigliamento, no? Allora lui entra si dice, per coprirsi i piedi. Naturalmente aveva un mantello che si toglie per essere più libero e lo deposita nelle vicinanze. In questa grotta c'era dentro Davide con i suoi armati, che gli dicono: guarda, guarda, il Signore te lo mette nelle mani. Un colpetto e l'abbiamo finito. E Davide dice no. Si avvicina senza farsi scorgere, vede il mantello deposto a lato, taglia via un lembo del mantello e, fatto questo, bellissimo, guardate, è un racconto meraviglioso, scusate se sono un po' più lunghetto, ma a me la parola di Dio piace leggerla e spiegarla. Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. E poi disse ai suoi uomini: «Mi guardi il Signore dal fare una cosa simile al mio Signore, il consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore». Guardate che senso di sacralità a Davide, perché sa che questo re è stato scelto da Dio ed è stato consacrato con l'olio santo da Samuele. E anche dopo aver fatto questo piccolo gesto innocente, no? Si sente palpitare il cuore. Allora poi lo lascia finire, esce, va fuori. Naturalmente vi dice che il deserto ha queste collinette, degli avvallamenti, per cui magari in linea d'aria sei lontano 100 metri, ma in mezzo c'è un avvallamento che a percorrerlo ci vuole mezz'oretta, capite, no? Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò: «Saul, Saul!» E allora qui c'è questo dialogo, dice: «Guarda che il Signore oggi ti aveva messo nelle mie mani, i miei uomini mi dicevano di ucciderti, ma io ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore perché è il consacrato del Signore». E ancora dopo lo ripete: «La mia mano non sarà mai contro di te. Sarà il Signore a farmi giustizia nei tuoi confronti, ma io non alzerò mai la mano contro di te». Guardate, io andrei avanti mezz'ora a parlarvene, ma qui mi fermo per dire: guai, guai, fratello, guai, sorella, che osi alzare la voce contro il Santo Padre. Davide si sente palpitare il cuore perché ha staccato un pezzo di mantello di Saul, che gli serviva poi a dire: «Vedi, eri nelle mie mani, ma io non ho steso la mano contro di te perché tu sei consacrato da Dio». Come fai, fratello, sorella, come fai a alzare la voce contro il tuo Papa e, scelto dallo Spirito Santo, dirgli che in Vaticano la massoneria lo guida, a dire che è un eretico, a dire che se ne deve andare? Come fai, fratello? Guai, guai a te, guai a te, guai a te». La stessa cosa nei confronti del vescovo. E se penso che sacerdoti criticano, sparlano, deridono, scherzano il loro vescovo, guai a te, fratello, guai a te. Il Signore faccia giustizia. Ma io mai alzerò la voce, alzerò la mano contro il Papa, contro il mio vescovo e, se mi permetti, contro il mio parroco. Ero giovane prete a Milano, c'era un gruppo di giovani che non trovava accoglienza in parrocchia e trovava simpatia in me, così. E allora un giorno fanno una riunione anche con qualche genitore e mi hanno detto: «Tu, Don Ambrogio, devi alzare la voce e devi», hanno usato una parola un po' volgare che voi potete comprendere bene, dove devi mettere contro il parroco. E gli ho detto: «Guardate, voi avete ragione su queste questioni, ma io non porterò mai il mio parroco in piazza sulla bocca della gente. Io sto con voi e, se voi mi capite, vi basti la mia stima, ma il mio parroco non lo porterò mai in piazza». Al che mi hanno detto: «Va bene, allora lasciamo te». E io li ho persi, ma non ho mai perso la stima, le parole verso il mio parroco, verso un sacerdote, verso il vescovo, men che meno verso il Papa. Oh, amici, amici, amici. E per il resto andate avanti a leggerlo voi, è bellissimo. Leggete almeno questo capitolo 24esimo del primo libro di Samuele. Ciao amici, la Bibbia veramente è storia della salvezza. Ciao, buona giornata.